Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Teatri d'imbarco presenta C'era la rivolta nel ghetto, i giorni dell'insurrezione del ghetto di Varsavia, tratto dall'opera di Marek Edelman, adattamento e regia Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli e Balagan Café Orchestra, diretta da Enrico Fink. Tedesco, quando conquista Varsavia nel 1939, trova la società ebraica in uno stato di totale disgregazione e di caos. I leader politici, i responsabili delle attività sociali, gli intellettuali, hanno abbandonato la città alla propria sorte. La massa degli ebrei, 300.000 persone, si è sentita sola e priva di ogni guida. Per i tedeschi non è difficile prendere il controllo su questa massa e riuscire a portarla a uno stato di passiva rassegnazione. Il raffinato ed esperto apparato di propaganda tedesca diffonde voci inverosimili che contribuiscono a ingigantire il panico e ad aumentare la disorganizzazione. In breve tempo, le rappresaglie nei confronti degli ebrei non si limitano più a schiaffi occasionali, alla sadica cacciata dalle abitazioni, ma assumono un carattere sistematico. Vengono emanati i primi decreti che portano alla disgregazione della struttura sociale, l'apertura di campi di rieducazione per l'intera popolazione ebraica e la confisca dei beni. Seguono divieti e limitazioni. È vietato lavorare nelle grandi industrie, è vietato lavorare in istituzioni pubbliche e statali, è vietato fare il pane, è vietato guadagnare più di 500 zloty al mese. Il prezzo del pane raggiunge gli 80 zloty al chilo. È vietato vendere e comprare dagli ariani, è vietato farsi curare da medici ariani, è vietato viaggiare sui treni e sui tram, è vietato oltrepassare i confini municipali, è vietato possedere oro e gioielli. Ogni ebreo che ha compiuto i 12 anni è obbligato a portare sul braccio destro una fascia bianca con la stella di David azzurra. La popolazione ebraica, bastonata, umiliata, assassinata, vive nella paura. Ogni violazione dei regolamenti è punita con una sola misura, la pena di morte. Ma il rispetto delle regole non difende la popolazione da vessazioni sempre più inimmaginabili, da persecuzioni sempre più gravi, da atti di terrore sempre più frequenti, da regolamenti sempre più severi. Il coronamento di tutto questo è la legge non scritta della responsabilità collettiva. Così vengono fucilati 50 uomini come rappresaglia per una presunta aggressione contro un poliziotto polacco. Questo primo caso di assassinio di massa aggrava l'atmosfera di panico tra gli ebrei. La paura del tedesco cresce fino a diventare inenarrabile. In questa atmosfera il Bund, l'Unione dei Lavoratori Ebrei, continua la sua attività sociale e politica. Tra di noi si trovano persone che, nonostante tutto, cercano di agire. La coscienza del fatto che in ogni momento si può morire ha però effetti deprimenti. La mancanza della sensazione di essere soggetto delle proprie azioni toglie la volontà di lavorare e la sicurezza di sé. Semplicemente per noi rappresenta uno sforzo sovrumano riuscire a superare la nostra disperata apatia, intraprendere una qualsiasi azione e opporsi all'atmosfera di panico. Novembre del 1940 i tedeschi istituiscono il ghetto a Varsavia. Tutta la popolazione ebraica che abita ancora fuori viene trasferita in quell'area. I polacchi che abitano nella zona del ghetto lasciano le loro case e giorno dopo giorno crescono i muri e il filo spinato attorno al ghetto, finché il 15 novembre la popolazione ebraica rimane completamente isolata dal mondo e dagli altri. Tutti i lavoratori delle industrie, gli impiegati statali e comunali rimangono disoccupati. La maggior parte della popolazione scivola nell'estrema miseria. Il totale isolamento, il divieto di introdurre giornali, la mancanza di notizie dal mondo hanno uno scopo preciso: dirigere tutti gli ebrei verso uno stesso binario. Ciò che accade fuori dal muro diventa sempre più lontano ed estraneo, come avvolto in una nebbia sempre più fitta. Importante è solo la quotidianità, le cose più intime, le persone vicine. Su questo è concentrato tutto l'interesse dell'abitante del ghetto. L'importante è solo vivere. E quella vita ognuno la intende a modo suo. I ricchi inseguono il benessere nel chiasso dei caffè sempre affollati, nella musica da ballo dei locali notturni. I miserabili trovano la felicità in un pezzo di pane avuto come elemosina che permette di dimenticare per un momento cosa sia la fame. Ma la fame aumenta, esce fuori dalle abitazioni buie e affollate e si riversa nelle strade, si mostra agli occhi con la vista di corpi gonfi, deformati. La fame parla con le bocche dei vecchi, dei giovani, dei bambini che chiedono l'elemosina. C'è una massa di bambini che chiedono l'elemosina. Fanciulli di 6 anni attraversano clandestinamente il filo spinato per procurarsi un po' di cibo dall'altra parte. In questo modo mantengono le loro famiglie. Spesso il rumore di uno sparo annuncia che un piccolo contrabbandiere è caduto nella lotta contro la fame. Così grande è la miseria che la gente muore di fame in strada. Le pompe funebri raccolgono i cadaveri che qualcuno ha coperto con foglie di giornale. Carretti carichi di cadaveri percorrono le strade. Le teste battono contro le assi dei carri. La situazione si fa ancora più tragica quando il ghetto viene invaso dagli abitanti deportati dalle piccole città intorno a Varsavia. Non ci sono case sufficienti, mancano gli alloggi, la gente sporca senza dimora vaga per le strade. Centinaia di persone si affollano nelle grandi sale delle sinagoghe, nei capannoni delle ex fabbriche sporche, pidocchiose, non avendo la possibilità di lavarsi, malnutrite, affamate. E nel contempo il tifo petecchiale imperversa. Gli ospedali sono strapieni, i medici non sono sufficienti, non hanno il tempo per curare le persone muoiono a centinaia. Al cimitero non c'è abbastanza posto, i becchini non riparano a sotterrare i cadaveri. L'epidemia aumenta, non c'è modo di combatterla, il tifo petecchiale è ovunque, minaccia da ogni parte e insieme alla fame diventa il padrone onnipotente del ghetto. Thank you. queste tragiche condizioni, i tedeschi cercano di introdurre l'apparenza dell'ordine e del potere. Il consiglio ebraico, Judenrat, ufficialmente esercita le funzioni di governo. Per mantenere l'ordine viene istituita una milizia ebraica in divisa, così i bambini contrabbandieri devono temere un'altra autorità e la popolazione del ghetto ha tre cerberi: il tedesco, il poliziotto polacco e il poliziotto ebreo. In questa atmosfera, nel febbraio del 1941, arrivano a Varsavia le prime notizie sull'uso del gas per uccidere gli ebrei a Chełmno in Pomerania. Le portano tre fuggiaschi salvatisi miracolosamente. Dal loro rapporto si evince che a Chełmno sono stati uccisi con il gas circa 40.000 ebrei di Lodz e 80.000 della Pomerania, assieme ad alcune centinaia di zingari della Bessarabia. Ma il ghetto di Varsavia non ha creduto a queste notizie. Tutta quella gente che si aggrappava alla vita non poteva credere che le venisse tolta in quel modo. Solo la gioventù organizzata ha capito che si trattava di episodi più che verosimili e ha deciso di iniziare una vasta azione di propaganda con lo scopo di rendere la società cosciente dello stato delle cose. Il racconto del massacro di Chełmno viene diffuso nel ghetto in decine di copie e viene inviato all'estero un rapporto. Ma neanche all'estero ci credono. Il nostro appello non ha eco alcuna. Lo scoppio della guerra russo-tedesca nell'estate del 41 provoca azioni di sterminio di massa nei territori occidentali della Bielorussia e dell'Ucraina. Cadono decine di migliaia di ebrei. Le notizie giungono a Varsavia, ma ancora una volta l'atteggiamento di una società priva di coscienza è miope. La maggioranza della popolazione ritiene si tratti di eccessi di una soldataglia ubriaca di vittorie, ma i partiti e i gruppi politici sono di diverso parere. Nel gennaio 1942 ha luogo una conferenza interpartitica. Tutti sono del parere che l'unica risposta degna è la lotta armata. Noi, d'intesa con i socialisti polacchi, fondiamo la prima organizzazione combattente. La totale mancanza di armi ci impedisce di allargare il raggio della nostra azione. In pratica, il lavoro consiste nell'avvertire le persone dei possibili arresti. Viene fondata la sezione giovanile del mutuo soccorso ebraico. Riusciamo ad arrivare ad ampie fasce di gioventù. I nostri istruttori guidano dei circoli giovanili che si organizzano attorno ai comitati di palazzo. Pubblichiamo 6 riviste. La pubblicazione delle riviste ha luogo in condizioni estremamente difficili. Un vecchio ciclostile viene usato ininterrottamente per tutta la notte. Il lavoro alla luce delle lampade a petrolio è estenuante. Verso le 2 di notte il personale della stamperia si lamenta per il dolore agli occhi, ma non si può sprecare nemmeno un attimo. Alle 7 del mattino il numero deve essere pronto per la diffusione. La gente lavora oltre le proprie forze e alla notte, insonne, segue un'intera giornata di tensione. Ci chiediamo se tutte le copie sono arrivate ai destinatari, se tutto è a posto, se non ci sono stati degli arresti. Una volta Marinka, che porta addosso 40 copie del bollettino, viene fermata da un poliziotto polacco. Ecco è la catastrofe. Da sotto la gonna non sono cadute calze, ma fogli di carta. La situazione si fa molto seria. All'improvviso un colpo di fortuna, una rissa è scoppiata in strada, i poliziotti si voltano. Tanto basta a Marinka per raccogliere i giornali, buttare i 500 slot promessi e correre a gambe levate. La rissa è stata provocata dal piccolo Kostek, che da lontano stava osservando la scena. Ogni copia di una nostra rivista veniva letta da circa 20 persone, ma intanto cresce il terrore nel ghetto. L'isolamento rispetto al mondo esterno si fa sempre più pesante. Gli arresti di coloro che tentano di passare dalla parte ariana si moltiplicano ogni giorno, finché non vengono introdotti i tribunali speciali. Il 12 febbraio 1941 vengono giustiziate 17 persone condannate per passaggio illegale dalla parte ariana. Di notte le urla di quelle persone si odono da tutte le celle della prigione. Anche questa volta ogni segno di ribellione viene soffocato sul nascere. La paura dei tedeschi è così grande che è impossibile ottenere un gesto di protesta. E d'ora in poi tutto assume un ritmo vertiginoso. Le strade del ghetto diventano un sanguinoso mattatoio. I tedeschi continuamente e senza ragione sparano contro i passanti. La gente ha paura ad uscire di casa, ma le pallottole colpiscono anche attraverso le finestre. Uno dei sadici peggiori, un gendarme della Schutzpolizei, ha sulla coscienza 300 persone uccise nel giro di un solo mese. Più della metà erano bambini. Nello stesso tempo i tedeschi, brutalmente, con l'ausilio della polizia ebraica, catturano la gente per strada, la trascinano fuori dalle case e la mandano nei campi di lavoro. Le continue deportazioni non suscitano però alcuna reazione, perché il ghetto, con ostinazione, dà credito alle voci secondo le quali giungerebbero delle lettere alle famiglie. Non viene dato credito nemmeno alla notizia dell'esecuzione nelle foreste vicino a Lublino di quasi un intero trasporto di prigionieri ebrei arrivati dalla Germania. Anche questa notizia è troppo efferata per poter essere ritenuta credibile. Il ghetto non crede. Ciò nonostante, noi facciamo il possibile per ottenere armi dalla parte ariana. Rendiamo più numerosa la nostra organizzazione di combattimento. Questo lavoro è una catena di delusioni e incomprensioni, di speranze vane di ricevere armi e mancanza di comprensione per la nostra causa da parte dei compagni polacchi. Quando giunge la notizia della liquidazione del ghetto di Lublino, il ghetto di Varsavia continua a nutrire diffidenza. Non ammette neppure il pensiero che un simile crimine potrebbe essere ripetuto nella capitale della Polonia, abitata da 300.000 ebrei. La gente si convince reciprocamente, spiega a se stessa e agli altri, che nemmeno i tedeschi assassinano senza motivo centinaia di migliaia di persone, e in particolare in un periodo in cui hanno un urgente bisogno di forza al lavoro. Per una persona normale, dotata di una psiche normale, è difficile comprendere che si possano assassinare gli esseri umani solo perché hanno un determinato colore di capelli o di occhi, solo perché hanno origini diverse. Sopraggiunge la tragica e sanguinosa notte tra il 17 e il 18 aprile del 42. Gli ufficiali tedeschi trascinano fuori dalle loro case oltre 50 attivisti dei movimenti sociali e li fucilano nelle strade del ghetto. L'indomani tutto il ghetto, spaventato, con i nervi scoperti, si perde in ipotesi sulla ragione di queste esecuzioni. La maggioranza è convinta che tutta l'azione è diretta solo contro gli attivisti politici e che di conseguenza bisogna cessare le attività per non aumentare inutilmente il già elevato numero di vittime. A partire da questo momento riorganizziamo tutto il nostro lavoro. D'ora in poi l'intera attività clandestina ha un solo scopo: organizzare la resistenza. Viene elaborato un piano d'azione nel caso in cui i tedeschi decidessero di invadere il ghetto. Attendiamo l'arrivo di un carico di armi, 100 revolver, qualche decina di fucili e di bombe a mano. Nel frattempo le nostre file sono decimate dalle esecuzioni. I tedeschi ogni notte assassinano 10-15 persone. Lo scopo è spaventare la gente fino al punto da renderla incapace di ogni rivolta. È difficile. È difficile raccontare oggi che cosa succedeva nel ghetto a quel tempo. Il sadismo e la bestialità dei tedeschi oggi sono note in tutto il mondo. Basta solo qualche episodio. 3 bambini stavano seduti uno accanto all'altro davanti all'ospedale. Un gendarme di passaggio ha ucciso tutti e 3 con un colpo solo. Una donna incinta ha inciampato ed è caduta attraversando la strada. Un tedesco che era lì non le ha permesso di alzarsi e le ha sparato mentre era ancora sdraiata. In via Orla ogni giorno arriva una piccola Opel da cui i tedeschi buttano fuori un uomo legato e lo fucilano nel primo portone. Si tratta di qualche ebreo catturato senza documenti dalla parte ariana. Ormai ogni notte, costellata di spari, dice espressamente agli abitanti del ghetto che il ghetto vive per grazia dei tedeschi, che è fragile e debole come un castello di carte. Tutti capiscono che il ghetto verrà liquidato, ma nessuno è ancora cosciente del fatto che il ghetto va verso la morte. A metà luglio del 1942 la nube nera si addensa. Si assiste all'arrivo del reparto tedesco incaricato delle deportazioni. Si dice che dal ghetto verranno deportati 20, 40, 60 mila abitanti, che tutti i disoccupati verranno avviati verso campi di lavoro, che a Varsavia resteranno solo coloro che hanno un'occupazione. Le voci suscitano preoccupazione, perfino il panico. La gente cerca di trovare un impiego nelle fabbriche, nelle istituzioni sociali, negli uffici. Non si parla, non si pensa ad altro. Tutti debbono lavorare. Il 22 luglio 1942, alle ore 10 del mattino, delle automobili tedesche arrivano alla sede del Consiglio Ebraico. È lo Stato Maggiore tedesco incaricato delle deportazioni. L'indomani, enormi manifesti bianchi firmati dallo Judenrat annunciano alla popolazione ebraica che tutti, ad eccezione di coloro che lavorano per i tedeschi e degli impiegati del Consiglio Ebraico e del Mutuo Soccorso, tutti devono lasciare Varsavia. La deportazione sarà eseguita dalla polizia ebraica d'intesa con lo Stato Maggiore tedesco. In questo modo i tedeschi hanno fatto sì che sia il Consiglio Ebraico ad emettere la pena di morte contro gli oltre 300.000 abitanti del ghetto. Prima del tramonto ha luogo una riunione dei nostri istruttori, dove decidiamo che, data la mancanza di armi e l'impossibilità di resistere, dobbiamo indirizzare tutta la nostra attività verso un altro scopo: salvare dalla deportazione il maggior numero possibile di persone. Ma prima ancora che la riunione sia terminata, arriva la notizia che i tedeschi e gli ucraini hanno già catturato 2.000 persone. Sono stati portati via tutti, anche coloro che erano in possesso di documenti che attestavano il loro impiego nelle officine tedesche. Il 23 luglio ha luogo un'altra riunione. Noi sosteniamo che occorre passare alla fase della resistenza attiva. Purtroppo l'intera opinione pubblica è contro di noi. Si argomenta che se gli ebrei fornissero il contingente richiesto, il resto del ghetto non verrebbe deportato. A poco l'istinto di autoconservazione porta la psiche umana a pensare che l'importante è salvare la propria pelle anche a costo della vita altrui. Nessuno, va detto, crede che la deportazione sia la morte. Ma i tedeschi ora sono riusciti a dividere la popolazione ebraica in due: da una parte i condannati a morte, dall'altra coloro che conservano la speranza di rimanere in vita. E lentamente, lasciando fare al tempo, i tedeschi riescono a utilizzare una parte contro l'altra, fino ad arrivare ad una situazione in cui degli ebrei porteranno altri ebrei verso la morte pur di salvare la propria vita. Noi attendiamo l'arrivo delle armi, tutta la gioventù è mobilitata, lo stato di massima allerta dura 3 giorni finché non svanisce l'ultima speranza di ricevere le armi. Tutti i nostri compagni sono mobilitati in diversi luoghi, aspettando gli ordini. L'atmosfera è talmente tesa che si arriva a scontri di piazza con la polizia ebraica incaricata della deportazione. Il secondo giorno il presidente del Consiglio Ebraico si suicida. Sapeva perfettamente che il preteso piano di evacuazione significava la morte nelle camere a gas di centinaia di migliaia di persone e non voleva esserne il responsabile, non avendo la possibilità di opporsi a ciò che è successo, ha preferito morire. Noi però eravamo del parere che non avesse il diritto di agire in questo modo, che fosse suo dovere, in quanto unica persona dotata di autorità nel ghetto, far conoscere alla popolazione la situazione reale delle cose e sciogliere tutte le istituzioni, in particolare la polizia ebraica. Quello stesso giorno appare il primo numero della nostra nuova rivista, in cui la popolazione viene ammonita di non presentarsi volontariamente per essere evacuata e si chiama alla resistenza, nonostante la nostra grande impotenza. Non fatevi catturare, difendetevi con le unghie e con i denti. La tiratura di quel numero fu triplicata. E per stabilire definitivamente e concretamente qual era la sorte della gente deportata dal ghetto, il compagno Zygmunt Friedrich fu inviato nella parte ariana con il compito di seguire un trasporto. Zygmunt è arrivato fino a Sokolov, dove i ferrovieri del luogo gli hanno detto che lì la linea si biforcava e un ramo andava verso Treblinka, e ogni giorno su quel ramo passava un treno merci proveniente da Varsavia, carico di gente. Poi lo stesso treno ritornava vuoto. Si trattava della prova che la gente portata lì veniva uccisa. Il giorno dopo, poi, Zygmunt incontrò due ebrei nudi, fuggiti da Treblinka, gli raccontano il massacro nei dettagli. Non si trattava quindi più di supposizioni, ma di fatti constatati da testimoni oculari. Dopo il ritorno di Zygmunt, viene stampato il secondo numero della nostra rivista, dove compare una descrizione precisa di Treblinka. Ma anche ora gli ebrei ostinatamente non ci credono. Chiudono gli occhi di fronte alla dura verità, si tappano le orecchie, si difendono appunto con le unghie e con i denti. E i tedeschi cinicamente inventano una nuova mossa propagandistica, promettono e danno a chiunque si presenti volontario per la deportazione 3 chili di pane e 1 chilo di marmellata. È sufficiente. La propaganda e la fame ottengono l'effetto voluto. La prima fornisce un argomento indiscutibile contro ogni favola sulle camere a gas e per quale motivo dovrebbero darci il pane se poi volessero assassinarci. La fame è un argomento ancora più forte. Stende un velo, anzi, l'immagine di 3 pagnotte dorate, croccanti, sopra ogni altra considerazione. Si sente quasi il loro sapore, vista la brevità della strada che divide da quelle 3 pagnotte la strada che da casa porta fino all'Umschlagplatz, da dove partono i vagoni. Questa brevità fa sì che gli occhi non vedano ciò che ti attende alla fine della strada, mentre il profumo del pane familiare buono confonde e allontana ogni pensiero, e così si cessa di comprendere ciò che è ovvio. Capitano giornate in cui centinaia di persone vengono addirittura respinte dall'Umschlagplatz e ci sono casi in cui per giornate intere la gente fa la fila per essere deportata. Il numero di coloro che vogliono ricevere i 3 chili di pane è così alto che sui treni che partono 2 volte al giorno con 12.000 persone ciascuno non c'è posto per tutti. Il nodo scorsoio intorno al ghetto si stringe sempre di più e cominciano i blocchi delle case e delle strade. Gente con gli zaini sulle spalle fugge ora da una strada all'altra cercando di evitare l'area in cui avverrà il blocco. Alla caccia all'uomo partecipano d'intesa i gendarmi, gli ucraini e la polizia ebraica. I ruoli sono rigorosamente divisi. I gendarmi accerchiano le strade, gli ucraini le case, mentre la polizia ebraica entra nei cortili e chiama gli abitanti. Tutti gli ebrei scendano in basso con 15 chili di bagaglio. Chi non scenderà sarà fucilato. E ripetono l'ordine una seconda volta. Da tutte le scale scende la gente, le persone correndo nervosamente si mettono addosso quello che hanno sotto mano. Alcuni si mettono in marcia così come sono combinati. Qualcuno si alza direttamente dal letto, altri hanno addosso tutto quello che possono, zaini, sacchi, pentole. Camminano guardandosi intorno inquieti. Ci siamo, questa volta è successo. Tremando si dispongono in gruppi davanti ai palazzi e cercano di guadagnare la benevolenza dei poliziotti. È proibito parlare. Da altri palazzi escono altri gruppi identici, persone tremanti, disperate, che si uniscono alle prime. Poi gli ucraini irrompono velocemente nei palazzi, dove le porte delle abitazioni sono spalancate come dal regolamento. Se la porta per caso è rimasta chiusa, la sfondano con un colpo del calcio del fucile, con un calcio degli scarponi. 2, 3 spari segnano la fine di quelli che non sono scesi come era stato loro ordinato e sono rimasti nelle abitazioni. Il blocco è terminato. Ora una tazza di tè si raffredda lentamente nel bicchiere lasciato su un tavolo. Le mosche si posano su un pezzo di pane appena morso. Intorno all'area del blocco la gente cerca disperatamente con gli occhi i propri familiari tra i gruppi che lentamente avanzano, accerchiati dagli ucraini e dai poliziotti ebrei. Dietro i risciò portano i vecchi e i bambini. La strada verso l'Umschlagplatz è lunga. La piazza da cui partono i treni si trova ai margini del ghetto. Gli alti muri che la circondano, sorvegliati attentamente dai gendarmi, hanno una sola stretta breccia. È da quella breccia che vengono fatte entrare a gruppi le persone ormai totalmente impotenti. Ognuno ha in mano qualche documento, tessere di lavoro, carte varie. I gendarmi all'entrata gli danno un'occhiata. Rechts, a destra, significa la vita. Links, a sinistra, vuol dire la morte. E anche se fin dall'inizio si sa che non sarà di nessun aiuto, nessun tipo di argomentazione, tentativo di persuasione, ognuno cerca di provare quanto sia indispensabile per la produzione tedesca e cerca di ottenere l'elemosina di quella breve parola, Recht. Ma il gendarme non ascolta, qualche volta ordina di mostrare le mani e sceglie tutte quelle piccole rex, altre volte separa Le donne bionde, Lynx, al mattino sceglie i bassi di statura, alla sera favorisce gli alti, Lynx, Lynx, Lynx. L'onda umana arriva, cresce, sommerge tutta la piazza e invade anche i tre grandi edifici scolastici. La gente si accalca nel tentativo di entrare negli edifici, bivacca nelle sale vuote, nei corridoi, sulle scale. Al secondo giorno la fame morde lo stomaco con crampi dolorosi, le labbra secche e screpolate soffrono per la mancanza dell'acqua. È da tempo che è finita l'epoca delle tre pagnotte. Ora tutti gli occhi hanno la stessa espressione, la paura selvaggia, folle, la disperazione impotente che annichilisce, l'improvvisa illuminazione che tra un momento arriverà fatalmente, il peggio, l'inverosimile, ciò a cui non si voleva credere. Solo qui, in questa piazza affollata, si infrangono le illusioni, svanisce la speranza cullata da ognuno fino a quel momento. Io eviterò l'annientamento generale, io salverò i miei cari. Ora un incubo tenebroso stringe lo stomaco, soffoca la gola, spalanca la bocca in un grido muto. Un vecchio si aggrappa freneticamente a degli sconosciuti. Una madre abbraccia i suoi tre bambini in un'agonia impotente. Si vorrebbe gridare, domandare, supplicare, ma a chi rivolgersi? Si è soli, completamente soli in mezzo a quella folla, mentre 100.000 fucili tengono sotto mira il tuo petto e gli ucraini a vista d'occhio diventano giganteschi. E allora non si sa più niente, non si pensa più a niente, ci si siede inebetiti in un angolo, direttamente nel fango, nella merda del pavimento umido, e c'è sempre meno aria, lo spazio si fa sempre più angusto e all'improvviso si intuisce che tutto è finito, che non si può più fare niente, che bisogna morire. Esiste la possibilità di uscire dall'Unschlangplatz? Ma si tratta di una goccia d'acqua nell'oceano per una folla di migliaia di persone in attesa della salvezza. Sono stati gli stessi tedeschi ad aver creato questa possibilità, trasferendo l'ospedalino pediatrico in uno degli edifici vicini e mettendoci un piccolo ambulatorio per i casi urgenti. Ogni mattina e ogni sera gli addetti in camice bianco si danno il cambio. Basta quindi vestire qualcuno con un camice bianco per farlo uscire facilmente assieme all'equipe di infermieri e di medici. Le infermiere prendono in collo dei bambini dichiarando che sono i loro figli. È più difficile con gli anziani. Loro possono essere spediti soltanto verso il cimitero oppure all'ospedale, così persone sane vengono portate fuori dall'Unschlangplatz nelle ambulanze e nelle bare. Ma ben presto i tedeschi hanno cominciato a controllare le ambulanze e lo stato di salute dei malati per far fronte a questa nuova situazione, perché la prova della malattia sia evidente. In una piccola stanzetta dietro l'ambulatorio, senza anestesia, vengono fratturati i piedi, mani ai vecchietti e ai bambini da portare in salvo. Anche la polizia ebraica aiuta a modo suo, prendendo per ogni testa, in cambio dell'accompagnamento fuori dall'Unschlangplatz, somme enormi in soldi, in oro, in preziosi. Ma coloro che venivano salvati tornano poi qui per la seconda, talvolta la terza volta, per scomparire irrimediabilmente nella spietata profondità dei vagoni. Ciononostante, la gente cerca disperatamente la salvezza, si aggrappa ai camici delle infermiere e elemosina un camice bianco. Un padre implora che venga rilasciato il suo bambino. La dottoressa alla fine gli toglie il figlio dalle braccia e, nonostante l'opposizione della guardia, spinge velocemente il bambino dentro l'ospedale. Accade spesso che chi deve portare fuori qualcuno non solo non riesca nel proprio compito, ma venga trascinato assieme alla folla verso i vagoni. Così è caduto uno dei più coraggiosi tra i nostri uomini, mandato all'Unschlagplatz per salvare dei nostri compagni. L'operazione di carico viene svolta due volte al giorno. Gli ucraini formano una catena ininterrotta che accerchia la piazza e spinge l'enorme folla verso i vagoni. Si spara ogni colpo, arriva al bersaglio. Non è difficile quando si ha di fronte una massa compatta di cui ogni particella, un essere umano, è il bersaglio. Gli spari fanno sì che la folla si precipiti verso i vagoni, bestiame già pronti, sono pochi. E allora, come bestie in preda alla follia, gli ucraini attraversano di corsa la piazza verso gli edifici. Qui comincia una caccia selvaggia all'uomo. La folla impaurita corre verso i piani alti, preme sulle porte dell'ospedale, si nasconde nei buchi oscuri del sottotetto pur di arrivare più in alto, il più lontano possibile. Magari si riesce a evitare anche questo trasporto, si riesce ad assicurarsi ancora qualche giorno di vita. Gli ucraini non amano faticare invano. Coloro che non sono riusciti a fuggire bastano per riempire i vagoni. All'ultimo momento si tappano gli ultimi buchi. In un vagone non sufficientemente affollato viene spinta una madre e, siccome per il bambino non c'è più posto, lo si stacca dalla madre che urla il suo strazio e lo si carica su un altro vagone. Ti difendi, un breve sparo esplode lentamente, a fatica si chiudono le porte, a colpi di calci di fucile si cerca di compattare la massa delle persone. Infine il treno parte, le camere a gas di Treblinka riceveranno nuovo mangime. In quel periodo abbiamo perso quasi tutti i nostri compagni. Ormai siamo solo un piccolo pugno di uomini e donne. Facciamo il possibile, ma si può fare poco. A metà agosto nel ghetto sono rimaste appena 120.000 persone e si ha l'impressione che la prima tappa dell'azione sia conclusa. Il comando tedesco se ne va via da Varsavia senza lasciare istruzioni, ma anche questa volta si tratta di speranze vane. Si scoprirà rapidamente che i tedeschi hanno fatto solo una pausa per liquidare nel frattempo le piccole città intorno a Varsavia. Dopo questa pausa l'azione riprende con ancora maggiore forza. Per i tedeschi però ora è più complicato, perché la gente ha imparato a nascondersi. In questa situazione decidono che ogni poliziotto ebreo deve portare all'Unschlagplatz 7 teste al giorno, altrimenti cade la sua. I tedeschi sono vincenti nel gioco che hanno imposto. Nessuno ha mai agito con tanta determinazione quanto ora un ebreo nei confronti di un altro ebreo. Per avere le 7 teste, i poliziotti ebrei arrivano ad arrestare un medico in camice bianco, una mamma con un bambino in braccio, oppure un bambino solo, sperduto, alla ricerca di una casa. La polizia ebraica scrive da sola la propria storia. Il 6 settembre 1942 tutti gli abitanti del ghetto ancora in vita vengono chiamati a presentarsi in un'area del centro. Qui avrà luogo l'ultima registrazione della popolazione. Da tutte le parti si vedono arrivare masse di persone in fila per quattro. In quel piccolo quadrilatero di strade si concentra tutta la popolazione del ghetto. I tedeschi assegnano a ogni ditta tedesca un determinato numero di lavoratori autorizzati a restare. A coloro che sono stati scelti vengono distribuiti dei numerini. Il numerino significa la vita. Le possibilità di averlo sono scarse, ma il fatto che esistano quei tagliandi è sufficiente perché il pensiero umano si confonda di nuovo, perché tutta l'attenzione venga concentrata su una sola cosa, perché tutto cessi di essere importante tranne il numerino. Alcuni lo reclamano a voce alta, urlando, cercano di provare il loro diritto alla vita. Altri attendono la sentenza con una rassegnazione colma di lacrime. In un'atmosfera di tensione estrema ha luogo la selezione definitiva. Dopo 2 giorni, i prescelti sotto scorta sono portati nei luoghi di lavoro dove vivranno come in una caserma. I rimanenti vengono portati dai tedeschi all'Umschlagplatz. Quello che succede all'Umschlagplatz, ora che non c'è nessuna possibilità di salvezza, non può essere descritto in parole umane, nemmeno le più forti. I malati, adulti e bambini dell'ospedalino giacciono abbandonati in sale dove fa freddo, se la fanno addosso e restano in quella melma puzzolente di urina e feci. Le infermiere cercano tra la folla i propri padri e le proprie madri e con un lampo selvaggio nello sguardo iniettano loro la buona morte, la morfina. La mano pietosa di un medico versa nelle bocche febbricitanti di bambini malati l'acqua con la soluzione di cianuro. Rinuncia alla parte di cianuro che gli spetta di diritto, perché il cianuro ora è il tesoro più prezioso, non ha prezzo. Il cianuro significa la buona morte, quella che risparmia l'orrore dei vagoni. In 2 giorni i tedeschi deportano 60.000 persone. Il 12 settembre l'azione è ufficialmente conclusa. Restano a Varsavia 33.400 ebrei. Con quelli che sono riusciti a nascondersi, ci sono circa 60.000 persone. Il 15 ottobre decidiamo di costituire un'organizzazione comune di combattimento con lo scopo di opporre una resistenza armata ai tedeschi nel caso che si ripetesse un'azione di sterminio. Nasce l'organizzazione ebraica di combattimento, la ZOB. Il comandante è Mordecai Anielievich, noi del Bund siamo rappresentati da Marek Edelman. Ancora una volta, non più da soli, abbiamo costruito una grande organizzazione e ancora una volta però dobbiamo affrontare il problema delle armi. Praticamente nel ghetto non ce ne sono. Alla fine del 42 riceviamo il primo invio di armi, è molto esiguo, appena 10 pistole, ma finalmente ci mette in condizione di preparare la nostra prima azione armata. Il 18 gennaio ha inizio la seconda azione di liquidazione. Questa volta però i tedeschi non riescono ad attuare impunemente i loro piani. Quattro gruppi di combattimento sulle barricate danno il via al primo atto di resistenza armata nel ghetto. La Zob riceve il suo battesimo del fuoco nella prima grande battaglia di strada all'angolo di Via Mila. Perdiamo lì il fior fiore della nostra organizzazione. Per miracolo e solo grazie al suo eroismo si è salvato il nostro comandante Mordechai Anelievich. Constatiamo che la battaglia di strada è troppo costosa per noi. Non siamo preparati, non abbiamo le armi adatte. Optiamo per la lotta partigiana. Uno dei nostri gruppi viene catturato e portato all'Unschlangplatz. Prima di salire sui vagoni, Pels tiene un breve comizio. Le parole sono forti, le parole sono così forti che delle oltre 60 persone nessuno sale. Tutti e 60 vengono fucilati sul posto dallo stesso capo di Treblinka, von Eppen. Questo gruppo dimostra agli ebrei che sempre e dovunque si può e si deve resistere ai tedeschi. La nostra lotta armata, le prime battaglie trovano una eco enorme. Per la prima volta i piani dei tedeschi sono stati ostacolati. Per la prima volta si dissolve l'aura del tedesco onnipotente. Per la prima volta la società ebraica si convince che si può fare qualcosa contro la potenza dei tedeschi. Non è importante quanti tedeschi siano caduti sotto i colpi della Zob. L'importante è il momento della svolta psicologica. L'importante è che i tedeschi, a causa di quella resistenza, abbiano dovuto interrompere l'azione. In tutta la città di Varsavia ora circolano leggende sulle centinaia di tedeschi uccisi, sulla grande forza della Zob. Tutta la Polonia in clandestinità ora ci stima. Alla fine di gennaio riceviamo 50 pistole di grosso calibro e 50 bombe a mano. Lungo il muro del ghetto, giorno e notte, vigilano le nostre guardie. Il loro compito? Dare l'allarme in caso di pericolo. Intanto la macchina di propaganda tedesca cerca di nuovo di annebbiare le coscienze degli ebrei, creando la leggenda sulle riserve, dove dovrebbero essere spostate le fabbriche e dove, sempre secondo la leggenda, gli ebrei produttivi, lavorando con dedizione per i tedeschi, potranno sopravvivere fino alla fine della guerra in tutta tranquillità. Con la Zob lanciamo un'altra vasta azione di propaganda. Stampiamo volantini che vengono attaccati sui muri del ghetto e sui muri dei palazzi. A febbraio del 1943 i tedeschi decidono di deportare i lavoratori della falegnameria. Si presentano all'appello solo 25 degli oltre 1000 operai. Nella notte due gruppi di combattimento incendiano i magazzini della falegnameria. L'azione tedesca, così ben pianificata, finisce con un fiasco. A marzo i tedeschi convocano i lavoratori della fabbrica di spazzole, dei 3.500 operai, nessuno si presenta. La Zob realizza tutti i suoi piani. I macchinari per la produzione delle spazzole vengono bruciati con bottiglie incendiarie. I tedeschi ora nel ghetto sono sempre più a disagio, sempre di più sentono l'ostilità. Non soltanto dei nostri gruppi di combattimento, ma della popolazione intera. La Zob è nel pieno della sua attività. L'organizzazione ora è sostenuta e sostentata da tutto il ghetto. I fornai e i commercianti forniscono la quantità di cibo stabilita. Gli abitanti più ricchi hanno l'obbligo di pagare una tassa per comprare le armi. Le armi entrano nel ghetto allo stesso modo di tutte le altre merci di contrabbando. Si organizza l'acquisto di materiali esplosivi e incendiari. Si organizza una fabbrica di bombe a mano e di bottiglie Molotov. Ogni combattente può contare su una pistola, quattro bombe a mano, cinque bottiglie incendiarie. Ogni settore ha a disposizione due, tre fucili. In tutto il ghetto c'è una sola mitraglietta. Vengono eseguite le condanne a morte contro quasi tutti i Gestapo ebrei. I tedeschi ora arrivano alla conclusione che gli ebrei non partiranno volontariamente dal ghetto, così cominciano di nuovo le retate. Ma la Zob li batte in velocità. Nei terreni abbandonati che separano i vari settori del ghetto vengono piazzati i gruppi di combattimento che liberano gli arrestati. I tedeschi decidono di liquidare il ghetto di Varsavia a qualunque prezzo. Il 19 aprile del 43, alle 2 di notte, la gendarmeria tedesca e la polizia polacca stanno circondando le mura del ghetto. Immediatamente tutti i gruppi di combattimento vengono messi in stato di allerta. Alle 2 e un quarto, i gruppi sono pronti nei luoghi prestabiliti. La popolazione civile da noi avvisata si reca immediatamente nei rifugi, nelle cantine e nei solai. Il ghetto sembra morto. Non si vede anima viva. Vigila soltanto la Zob. Alle 4 i tedeschi in piccoli gruppi di 3-4 entrano nei terreni abbandonati. Solo lì vengono formati e schierati i plotoni e le compagnie. Alle 7 entrano nel ghetto le unità motorizzate, carri armati e blindati. All'esterno i tedeschi posizionano l'artiglieria. Le SS sono pronte all'attacco. Con passo cadenzato entrano a ranghi serrati nelle strade apparentemente morte del ghetto. A vederli si potrebbe credere che il loro trionfo è completo, che questo esercito moderno, magnificamente equipaggiato, abbia messo in rotta un pugno di scapezzacollo. Ma no, noi non ci siamo spaventati, né siamo stati colti di sorpresa. Aspettavamo solo il momento adatto, che in breve tempo è arrivato. Quando i tedeschi si sono posizionati all'angolo di Via Mila, i gruppi di combattimento hanno aperto un fuoco concentrico. Esplodono ordigni sconosciuti, brevi raffiche di mitragliette squarciano l'aria, fucili crepitano un po' più in là. Così tutto ha avuto inizio. I tedeschi tentano di fuggire, ma la via d'uscita è bloccata. Nella strada sono molti ora i cadaveri. I tedeschi, gli uomini delle SS, mettono in azione i carri armati, ma neanche loro hanno troppa fortuna. Il primo carro armato va a fuoco, colpito da una nostra bottiglia incendiaria. Gli altri non osano avvicinarsi alle nostre postazioni. La sorte dei tedeschi incastrati nella tagliola di Via Mila è segnata. Nessuno ne esce vivo. Nel contempo è in corso una seconda battaglia all'angolo tra via Nalevki e via Gesia. Due gruppi di combattimento impediscono ai tedeschi di entrare nel ghetto. La battaglia dura più di 7 ore. I tedeschi costruiscono barricate con dei materassi, però sono costretti a ritirarsi più volte sotto la fitta sparatoria dei nostri combattenti. La strada affoga nel sangue tedesco. Le ambulanze tedesche ora portano in continuazione i feriti. Nello stesso tempo sono in corso combattimenti feroci in piazza Muranowski. I tedeschi attaccano da tutti i lati. I combattenti assediati si difendono con tenacia, con sforzi sovrumani respingono gli attacchi. Vengono conquistate 2 mitragliatrici e molte altre armi. Un altro carro armato tedesco brucia. È la prima vittoria totale della ZOB. L'indomani è silenzio. Solo alle 2 i tedeschi arrivano in raggi serrati alla porta della fabbrica di spazzole. Un tedesco si avvicina alla porta, cerca di aprirla. Nello stesso preciso momento una spina viene inserita nella presa. Sotto i piedi delle SS esplode una mina che li attendeva da tempo. Oltre 1 centinaio di SS muoiono nell'esplosione. Gli altri si ritirano sotto il fuoco dei nostri combattenti. Poi, per la seconda volta, subiscono un adeguato trattamento di benvenuto. Muoiono nelle esplosioni di bombe a mano e bottiglie incendiarie. E ancora una volta i tedeschi si ritirano dal ghetto. I combattenti festeggiano la loro seconda vittoria. E ora succede qualcosa che non era mai successo. 3 ufficiali tedeschi si avvicinano con le canne delle mitragliette rivolte verso il basso e delle coccarde bianche all'occhiello delle divise. Sono venuti per negoziare. Propongono una tregua di 15 minuti per sgomberare morti e feriti. La risposta: spari. Ogni palazzo è una fortezza. Da ogni piano, da ogni finestra, partono le pallottole dirette contro gli odiosi tedeschi. Al quarto piano è appostato il vecchio soldato Diament. Ha in mano un lungo fucile. Diament si muove lentamente. I ragazzi gli dicono di sbrigarsi, ma Diament è imperturbabile. Ogni colpo un tedesco. Al secondo piano c'è Dvora. Lei spara con tenacia. I tedeschi l'hanno individuata, cercano di colpirla, ma le pallottole le passano accanto. Lei invece ha creato loro parecchi danni. Al primo piano ci sono Slamek e Kajik. Buttano bombe a mano, una dopo l'altra. L'atteggiamento dei combattenti è così determinato che i tedeschi sono costretti a rinunciare a sconfiggerli con le armi e ricorrono a un'idea apparentemente infallibile. Appiccano il fuoco su tutti i lati della fabbrica di spazzole. In un attimo le fiamme avvolgono l'isolato, un fumo nero e denso prende alla gola e agli occhi. I combattenti sono risoluti a non morire bruciati vivi tra le fiamme. Strada facendo le fiamme ci si attaccano ai vestiti, l'asfalto si scioglie sotto i piedi, le suole prendono fuoco sul selciato incandescente. Uno dopo l'altro però ci facciamo strada tra le fiamme, da un palazzo all'altro, da un cortile all'altro, le travi in fiamme ci cadono addosso. Finalmente usciamo fuori dalla zona del fuoco, un mare di fiamme avvolge palazzi e cortili. Ciò che i tedeschi non sono riusciti a fare lo fa il fuoco onnipotente. Migliaia di persone muoiono tra le fiamme. Il ghetto ora è quasi completamente arso dalle fiamme. I combattenti scendono nei rifugi insieme alla popolazione civile. Là continueranno a difendere ciò che ancora si riesce a salvare. Il 1° maggio, un breve comizio e il canto dell'Internazionale. Tutto il mondo oggi celebra la festa. In tutto il mondo, in quel momento, vengono pronunciate parole brevi e forti, ma mai l'Internazionale è stata cantata in condizioni così tragiche, mentre un popolo non cessa di morire. L'8 maggio i reparti tedeschi e ucraini accerchiano il comando supremo dell'Azov. La furiosa battaglia dura 2 ore quando i tedeschi constatano che non sono in grado di conquistare il bunker. Vi gettano all'interno una bomba a gas. Chi non è stato ucciso da una pallottola tedesca né è stato avvelenato dal gas si suicida. È chiaro che da qui non ci sono vie d'uscita e a nessuno viene in mente di consegnarsi vivo nelle mani dei tedeschi. Jurek chiama tutti i combattenti al suicidio collettivo. Lutek spara su sua madre e sua sorella, poi rivolge l'arma contro se stesso. Ruth spara 7 colpi contro se stessa. In questo modo muore il comandante dell'Azov, Mordecai Anielievich. Nella notte gli altri, salvatisi per miracolo dal bunker di Via Mila, si riuniscono ai sopravvissuti. Abbiamo camminato per un'intera notte nelle fognature, tra sbarramenti, macerie, bombe a mano che appena toccate sarebbero esplose. Ogni tanto i tedeschi immettevano gas velenoso nelle gallerie. In queste condizioni, in un canale alto 70 centimetri dove non si poteva stare dritti e l'acqua arrivava alla bocca, abbiamo atteso 48 ore. A ogni istante qualcuno sveniva. I secondi duravano mesi. Il 10 maggio, alle 10 del mattino, accanto al tombino di via Prosta, angolo via Tvarda, arrivano due camion si apre il tombino e uno dopo l'altro finalmente usciamo fuori, ebrei con armi in pugno. Ma non tutti riescono a uscire. Il tombino si richiude pesantemente. I camion partono alla massima velocità. Di tutti i nostri compagni del Bund sono rimasti in vita: Jaika Bocialowska, Bonek Spiegel, Jana Kristal, Masha Gleitman e Marek Edelman. I tedeschi, per festeggiare la grande vittoria, fanno esplodere la grande sinagoga. Il ghetto è una montagna di macerie alta due piani. Così finisce la storia insanguinata degli ebrei di Varsavia. Coloro che sono caduti hanno compiuto il loro dovere fino in fondo, fino all'ultima goccia di sangue, sangue assorbito dal selciato del ghetto di Varsavia. Noi, i salvati, lasciamo a voi il compito di non far morire la loro memoria. Nicola Zavagli, che ha curato adattamento e regia dello spettacolo C'era la rivolta nel ghetto, i giorni dell'insurrezione del ghetto di Varsavia, tratto dall'opera di Marek Edelman, per Teatri d'Imbarco, un evento online dal palcoscenico del Teatro delle Spiagge di Firenze. Nicola, ben trovato. Grazie a tutti, mi fa molto piacere parlare agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, molto piacere, qua da Firenze. Raccontiamo questa storia, intanto il tema dello spettacolo. È una delle pagine centrali della Seconda Guerra Mondiale, forse insomma una delle vicende della storia d'Europa più forte, più potente. Questo lavoro dove chiaramente abbiamo Beatrice Ghisbelli come protagonista, come voce narrante, come conduttrice che ci porta dentro questa storia, è come se fosse una cronaca di tutti quei mesi lunghi in cui dal 39, quando i tedeschi hanno invaso la Polonia, hanno istituito subito nel 40 il ghetto di Varsavia. Come fanno i ghetti? Alzano i muri e hanno rinchiuso lì dentro la bellezza di quasi mezzo milione di ebrei che venivano anche da altre città della Polonia. E chi usciva da lì veniva immediatamente fucilato, impiccato o sparato al volo dai cecchini. Quindi rinchiusi lì mezzo milione di persone per un anno intero, popolazione decimata per malattie, fame, situazioni di quelle dove ti si spegne il cervello nell'essere rinchiuso. Nel 42 cosa decidono i nazisti? Il rastrellamento di tutti, per cui da una piazza all'interno del ghetto iniziano a partire deportazioni per Treblinka. Stiamo parlando di mezzo milione di persone. Ogni giorno partivano treni per Treblinka, salivano su questi carri bestiame per andare nel campo di concentramento, dove sistematicamente, come ben sappiamo, venivano gasati, si trasformavano in fumo, come racconta Guccini nella sua grande canzone. Dopo pochi mesi di questi rastrellamenti, cosa succede? Succede che un gruppo di giovani, stiamo parlando di 200 ragazzi sui 20 anni e ragazze, perché anche le ragazze combattono, prendono le armi, poche, perché non riescono a trovare armi, non riescono a trovare niente, però riescono per ben 3 settimane a fronteggiare carri armati, lanciafiamme, soldati super attrezzati, l'esercito più potente del mondo. Per cui la rivolta nel ghetto di Varsavia vuol dire la resistenza di 220 ragazzi ebrei che tiene sotto scacco l'esercito appunto più potente del mondo in quel momento lì. Vengono sconfitti inevitabilmente, ma vendono cara la pelle, resistono come resistono il popolo curdo, prima si citava, come resistono tanti popoli in guerra contro macchine molto più potenti di loro. Alla fine vengono sconfitti dai carri armati tedeschi e il capo di quell'insurrezione lì è costretto a suicidarsi perché nel bunker dove si erano nascosti vengono circondati dai nazisti e si riesce a salvare il comandante in seconda, questo Marek Edelman. Aveva 20 anni, all'epoca faceva il fattorino all'ospedale, per cui aiutava le persone negli ospedali, e lui attraverso le fognature con altri 3 o 4 riescono a salvarsi proprio spuntando fuori da un tombino in un altro punto della cosa. Nel frattempo cosa fanno i tedeschi? Avevano già incendiato tutto il ghetto, distruggono tutto, per cui radono completamente al suolo il ghetto di Varsavia. Fine di una storia terribile. Quei pochi sopravvissuti partono per le Americhe, per la Palestina e per altri cose. Si parla che in Polonia nel 39 c'erano 6 milioni e mezzo di ebrei. E nel ghetto, tra malattie, fame e camere a gas, ne sono morti come minimo 500.000, ecco, per darvi un pochino lo schema gelido. Il mondo, Churchill, Roosevelt, i grandi che stavano gestendo la guerra in Europa, queste cose le sapevano. Sapevano tutto, perché non potevano non sapere. Tra l'altro il governo polacco era lì a Londra. Forse c'è stata una indifferenza, che è la parola chiave che anche la Liliana Segre ora tira fuori giustamente, del mondo davanti allo sterminio degli ebrei. Ora, in grande sintesi, vi ho risparmiato tutti i particolari del racconto, però ecco che cos'è stato questa pagina della storia. Che taglio hai voluto dare alla scena? La forza incalzante e battente e emozionante di Beatrice Visibelli, quando un'attrice ha calore umano e potenza, riesce a farti passare immagini, perché poi noi stiamo parlando di immagini. Io vi ho raccontato lo schema e lì invece sono dettagli particolari, sono sentimenti umani di gente stremata dalla fame, da bambini che muoiono per strada. Lei riesce attraverso le parole a far vedere le immagini e a raccontare i sentimenti delle persone rinchiuse per 2 anni fino alla morte, fino a quei pochi che si sono salvati, che cosa può arrivare il male, ecco, la capacità di creare male, di partorire dalla mente il male dell'essere umano. Questa è un'indagine che è eterna, perché il male continua a esserci nel mondo. I nazisti sono l'emblema, il simbolo del male assoluto, ma il male c'è in ogni parte del mondo, dove ci sono le guerre, dove c'è la sopraffazione, dove ci sono i fascismi, dove ci sono chiaramente tutte quelle forme di violenza che non rispetta l'essere umano. Ecco, Beatrice incarna la voce, e dentro la voce di Beatrice c'è la musica di un gruppo di ragazzi di 20 anni, la Balagan Cafe Orchestra, diretta da un grande musicista klezmer, compositore, che è Enrico Fink, musicista che ha lavorato con Monio Vaia, molto sensibile a queste tematiche. Lui, come ebreo, adesso è diventato anche giovanissimo presidente della comunità ebraica qui di Firenze, per cui chiaramente sta parlando del suo popolo, ma non si tratta del suo popolo, si tratta di tutti noi, ecco. Quando dobbiamo raccontare queste pagine, purtroppo dobbiamo avere il coraggio di guardarle in faccia, queste cose qui. Non dobbiamo girarci dall'altra parte quando vediamo gli orrori che ci sono nel mondo, perché è vigliaccheria, e non dobbiamo essere vigliacchi, anche se la sera ci fa fatica perché abbiamo paura, perché abbiamo la pandemia che ci ossessiona, perché siamo tutti in un equilibrio instabile emotivamente, però dobbiamo avere il coraggio di guardare e noi artisti di continuare a raccontare evitando la retorica, gli eroismi che non ci sono stati, per cui ci vuole quella secchezza. La musica, quando è una musica che trasmette emozioni, è la parola. Ecco, questo è, c'era la rivolta nel ghetto, questo è quello che noi siamo molto felici che voi abbiate trovato spazio nel vostro palinsesto per far ascoltare quest'ora di spettacolo. Il pubblico di noi teatranti ci manca, però in questo caso la voce di Beatrice Visibelli e la voce degli strumenti suonati dall'orchestra di Enrico Fink credo che possano essere un bel pezzo di radio tosta, ecco, tosta, dura e credo appassionante, ecco, che possa comunque trasmettere la passione di questa storia. Per tutte le informazioni come riferimento c'è il sito internet della compagnia, giusto? Sì, certo, c'è il sito della compagnia, abbiamo fatto il 27 due online col pubblico, il 31 lo rifacciamo e su Radio Onda Rossa ci farà molto piacere quando lo programmate voi. C'era la rivolta nel ghetto, i giorni dell'insurrezione del ghetto di Varsavia, tratto dall'opera di Marek Edelman, adattamento e regia Nicola Zavagli, per Teatri d'Imbargo, un evento online dal palcoscenico del Teatro delle Spiagge di Firenze. Nicola, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima! Grazie a tutti di Radio Onda Rossa, grazie di cuore! L'agenda della settimana teatrale. Con Carlo Emilio Lerici, regista dello spettacolo Dr. Faustus, per il Teatro Belli in streaming dal 1 al 7 febbraio 2021. Millo, ben trovato. Ciao, ben trovati a tutti quanti gli ascoltatori. Sì, siamo sempre qui a proporre cose diverse. Questo Faust l'abbiamo portato in giro nell'estate del 2019, dovevamo riprenderlo questa stagione, ma il Covid purtroppo ce lo ha impedito, per cui è rimasto questo bel ricordo di quest'estate del 2019 e la ripresa è stata fatta molto bene al Festival di Sarsina con tre telecamere, per Plautus Festival, uno dei festival più importanti in Italia estivi. Ed è il testo di Marlow, bellissimo testo di Marlow, integrale, con la traduzione bellissima in versi di Rodolfo Wilco, che con due interpreti nei ruoli di Faust e Mefistofele, grandissimi, Edoardo Silao e Antonio Salines. Ne abbiamo fatto intero, cose che non si fanno più, 10 attori in scena, la scenografia, il camion che portava le scene. Cose d'altri tempi, che vista oggi sembra ancora più una cosa d'altri tempi. Cosa ti aveva entusiasmato del testo? Il Faust è bellissimo, bellissimo, le parti tragiche, quelle dei dialoghi tra Mefistofele e Faust sono bellissime. E poi ha queste aperture con le scene degli altri personaggi che sono molto divertenti, c'è proprio il gusto dell'epoca di scherzare all'interno di una tragedia e quindi quelle parti che in genere poi vengono sempre tagliate per lasciare a Faust e Mefistofele il loro rapporto privilegiato e quindi rendere l'opera estremamente drammatica, invece ha delle parti interne che sono molto belle, sono molto leggere, sono molto divertenti e insomma io credo farlo intero, così integrale, e sia anche un'occasione per riapprezzare un testo di cui forse tanti si sono dimenticati, di come sia nella sua complessità. Ecco, forse è uno dei testi dove poi si può apprezzare maggiormente la grandezza di Marlow. Troppo spesso messo in secondo piano rispetto a Shakespeare, quando invece è altrettanto grande. Qual è stato il vostro lavoro di trasposizione? Io ho lavorato, ti ripeto, molto sul rapporto tra Siravo e Salines, che loro si conoscono molto bene, hanno un affiatamento fra di loro e hanno proprio giocato in scena, fra di loro li ho lasciati proprio liberi di divertirsi. Con il resto della compagnia ci siamo divertiti a sottolineare anche le parti magiche del testo, usando un po' di trucchi, un po' di effetti, forse i trucchi e gli effetti magari in televisione si percepiscono di meno. Dal vivo erano molto divertenti le apparizioni e le sparizioni e un po' i giochi che ci sono dentro. Ci siamo divertiti molto, ecco, abbiamo fatto un grande gioco, abbiamo raccontato una grande favola tragica, ma raccontandola con grande divertimento e provando a divertirci a fare delle cose anche un po' stravaganti, un po' bizzarre, se vuoi. Le prime messe in scena che tipo di risposta hanno avuto? Noi abbiamo fatto un bel giro con l'estate del 19, perché siamo stati in Sicilia, in Calabria, poi siamo andati su a Sarsina, in Umbria, e devo dire che l'accoglienza è sempre stata ottima. Poi lì a Sarsina poi invece una platea anche molto raffinata, se vogliamo, e lì proprio è stato veramente un grandissimo successo. Avevamo debuttato a Volterra, un altro festival importante, anche lì avevamo raccolto grandi, grandi consensi. Era uno spettacolo che avevamo pronto, che avremmo riportato in giro con grande piacere. Purtroppo è rinviato, insomma, lo faremo la prossima stagione, però io sono contento comunque, perché riflettevo questa opportunità che stiamo cercando di sfruttare col Belli, di proporre spettacoli video, alcuni li facciamo appositamente, ne faremo altri, nei prossimi giorni faremo delle riprese di tanti altri nostri spettacoli di repertorio che proporremo. Ci dà l'occasione di creare un archivio di cose che uno potrà rivedere anche fra i 50 anni, cosa che non possiamo fare di tanto teatro che si è fatto negli anni 60-70, quindi in fondo ci lamentiamo, ma siamo dei privilegiati, perché potremmo comunque lasciare dei documenti di qualcosa che abbiamo fatto, e se l'abbiamo fatto bene, meglio ancora. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? La visione costa 5 euro, si può acquistare dalla pagina del Teatro Belli, www.teatrobelli.it, e dopo l'acquisto tutte le sere tra le 21 e le 24 sarà visibile lo spettacolo e verrà inviato il link con la password e sarà visibile direttamente all'interno delle pagine del Teatro Belli, o proprio digitando proprio il link completo, insomma molto semplice come procedimento. Comunque parte tutto da www.teatrobelli.it. Dottor Faustus di Christopher Marlowe per il Teatro Belli in streaming dal 1 al 7 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Emilio Lerici. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, alla prossima, un saluto a tutti. Con Chiara Casarico della compagnia Il Naufragar Me Dolce per presentare il progetto Toc Toc Teatro, il teatro che bussa alla tua porta. Chiara, ben trovata. E ben trovati tutti. Ciao. Raccontaci. Che dobbiamo fare? Qualche cosa ce la dobbiamo inventare. I teatri sono chiusi e probabilmente prima che riaprono passerà un bel po' di tempo, e quindi per forza ci dobbiamo inventare qualcosa. Era da ottobre che cercavamo di dare una risposta a questa situazione, perché chiaramente siamo fermi da marzo scorso, e allora ci siamo poste delle domande e chiaramente abbiamo cercato di dare delle risposte che non fossero poi semplicemente la nostra esigenza personale di attrici, di attori che non lavorano, ma che fosse qualcosa di utile, cioè che servisse proprio alla cittadinanza. E quindi a un certo punto si è affacciata alla porta delle nostre menti, dei nostri cuori, questa idea meravigliosa che è Toc Toc Teatro, il teatro che bussa alla tua porta, perché abbiamo pensato che veramente come cittadine abbiamo bisogno di contatto fisico, cosa che chiaramente non si può ancora fare. Bisogna mantenere le distanze, bisogna essere protetti, proteggerci e proteggere, però ci sono degli espedienti. Allora, quindi, se non si può andare a teatro, sarà il teatro che busserà alle porte, e chiaramente senza entrare dentro casa, per carità, ma rimanendo sul pianerottolo di casa, oppure se c'è un giardino o un cortile condominiale, o se ci si può addirittura affacciare dal balcone comodamente, stare seduti sulla propria sedia o poltrona e assistere a uno spettacolo. Quindi sono interventi di teatro urbano, chiamiamolo così. Abbiamo già fatto degli esperimenti alle porte, gli anziani ci hanno aperto con stupore e con gioia e anche con emozione, o i bambini sui terrazzi condominiali che ci chiedevano ancora, facciamolo ancora. Quindi cioè, è chiaro che abbiamo veramente tanto bisogno di rientrare in contatto con la nostra umanità, e questa qui è un po' la nostra risposta. E devo dire che è andata così, appunto, abbiamo detto vabbè, adesso cominciamo a pensare come lanciarla, come renderla sostenibile. È chiaro che come tutti i teatri, cioè anzi il teatro lo sappiamo bene, non può sopravvivere solo e semplicemente dello sbigliettamento del pubblico, perché sappiamo bene che i teatri ricevono il gusto, soprattutto i grandi, ovvio, i piccoli mai, giammai. Però appunto è chiaro che quando si va in un grande teatro e si spende 25, 30, 40 euro per andare in platea, ma quelle 40 euro non riescono a pagare tutti gli attori, i registi, i tecnici, gli scenografi, gli organizzatori, le maschere, la struttura del teatro. È chiaro che ci sono delle spese ulteriori che devono essere supportate da una politica, no? E infatti esiste il FUS. Allora, in questo caso, chiaramente, noi come piccole compagnie indipendenti non è che abbiamo grandi aiuti. Sì, c'è stato quest'anno questo extra FUS, insomma un po' di elemosina, insomma niente di trascendentale. Ci dobbiamo inventare qualcosa. Allora, chiaramente per renderlo accessibile alle persone faremo un crowdfunding, cercheremo dei finanziamenti pubblici, ma soprattutto per portarlo anche gratuitamente alla cittadinanza in situazioni di fragilità, di emarginazione e di svantaggio, cosa che peraltro abbiamo sempre fatto, perché insomma poi tu Federico ci conosci ormai da una vita, ma non è la prima volta che noi andiamo nei cortili delle case popolari. Abbiamo iniziato nel 2001 con la rassegna di teatro in cortile, che poi si è trasformata in Agora Teatro e Musica alle Radici, e quindi andiamo nei cortili di San Basilio, di Tufello, di Pietralata, cioè continuiamo a fare in realtà quello che abbiamo sempre fatto. È chiaro che non vediamo l'ora di ritornare anche in teatro, ma quello purtroppo per ora non è possibile, e ora l'esigenza di tutti, quindi non solo nostra, ripeto, è quella di ricominciare, e questo ci sembrava un modo per farlo, ecco, mettiamola così. Due curiosità, ho visto le vostre foto sui pianerottoli e volevo sapere quando avete esordito con questo progetto e poi come si articola materialmente un evento. La nascita proprio ufficiale sarà sabato 30. Per ora abbiamo fatto solo degli esperimenti che abbiamo filmato e che hanno suscitato delle reazioni entusiastiche. A parte, vabbè, gli anziani che aprivano la porta e si guardavano con questi occhi all'inizio un po' timorosi, e poi teatro. Ma io te la spalanco la porta, cioè, e, oppure cominciano a raccontare, ti raccontano la vita. C'è stata veramente una risposta pazzesca, e i primi interventi li abbiamo iniziati a fare i primi di gennaio, dopo l'Epifania. Abbiamo iniziato a fare degli interventi spot in zone che più o meno conoscevamo, dove c'erano persone che più o meno conoscevamo, e la risposta è stata entusiastica. Chiaramente sono interventi brevi e sono pensati per lo spazio e per le persone che vai a incontrare, quindi più o meno ti fai anche un po' un'idea, e tu come attore hai la tua valigia dell'attore, quindi c'hai un repertorio, no? Che poi per noi coincide sia con pezzi dei nostri spettacoli, quindi il nostro repertorio proprio di compagnia, ormai abbiamo all'attivo una quindicina di spettacoli, quindi insomma di roba da attingere ne abbiamo parecchia, ed è teatro di narrazione, teatro canzone, teatro comico anche, e in questo momento stiamo cercando chiaramente di spingere molto di più sul comico per tirare sul morale, perché abbiamo bisogno di ridere, abbiamo bisogno anche di risollevare un po' l'energia. Quindi ecco, diciamo che gli interventi vengono proprio studiati ad hoc, infatti l'idea è: chiediamo alle persone ogni volta di fare una piccola intervista, un piccolo colloquio, in cui noi cerchiamo di capire qual è l'esigenza e poi componiamo il nostro intervento, chiaramente a sorpresa, perché non è che facciamo il jukebox, quindi stringi la monetina e dici vorrei mezzetto di, no, l'intervento veramente lo calibriamo ogni volta a seconda delle situazioni, è per questo che è importante l'intervista con chi ci accoglie, per capire appunto dove andiamo e che tipo di incontro sarà. Ecco, diciamo è un invito all'incontro e a voler star bene. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? Ci trovate su Facebook alla pagina Toc Toc Teatro, Teatro a domicilio. La nostra mail è toctocteatro.21@gmail.com, oppure ci trovate sul il naufragarmedolce.it. Abbiamo anche un numero di telefono 333-750-8235. Ecco, quindi avete tutti i nostri riferimenti, chiamateci e noi busseremo alla vostra porta. Toc Toc Teatro, il teatro che bussa alla tua porta. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Casarico della compagnia Il Naufragarmi è Dolce. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie e viva il lupo. Alla prossima. Con Anna Maria Di Giovanni della Biblioteca Centrale Ragazzi per presentare il progetto di Biblioteche di Roma rivolto alle scuole Letture in Valigia. Ben trovata. Buon pomeriggio, è un piacere di presentare questo progetto che da un po' di mesi che vivo e che sta in qualche modo avvicinandosi a parecchie scuole di Roma e di tutti i generi e gradi, dal nido all'infanzia, alla primaria, fino ad arrivare alla secondaria di primo e secondo grado. Si chiama il progetto Letture in Valigia ed è nato proprio perché dal momento in cui i ragazzi non possono più venire da noi, una biblioteca come la nostra, che è una biblioteca specializzata in particolare in libri per bambini e ragazzi e per le persone che si occupano di bambini e ragazzi, appunto, insegnanti, genitori, professionisti. E dal momento in cui i ragazzi non possono più venire da noi in biblioteca, la biblioteca ha deciso di raggiungere i bambini e ragazzi a scuola, lasciando a loro e alla scuola una valigia di libri, permettendo quindi loro di continuare a usufruire dei nostri servizi, che in questo periodo di emergenza gli hanno impedito di venire, come stesso succedeva nel periodo precedente, a venire per fare una visita guidata, una lettura e tanti altri appuntamenti dedicati proprio alle classi e alle scuole. Oltretutto è un servizio che ci ha permesso di ragionare su quali libri potevamo offrire e questo è stato un lavoro molto importante per noi, visto che aprivamo il lavoro a tante fasce di età, ci siamo permessi in qualche modo di individuare anche che tipo di libri potevamo offrire alle diverse età a cui ci avvicinavamo e quindi sono nate una serie di valigie piene di libri a tema per i nidi e l'infanzia, la voglia di conoscere il mondo intorno a loro e quindi libri per esplorare il mondo, storie per cominciare a leggere, storie per osservare la natura, che è stato uno dei temi più richiesti dalle insegnanti dei nidi e dell'infanzia, e poi chiaramente tanti libri per leggere e cominciare a leggere. Per le scuole elementari chiaramente abbiamo riflettuto su proporre delle tematiche, libri sulla scienza, i viaggi e le esplorazioni e in particolare, visto che abbiamo iniziato ad ottobre, anche dei libri dedicati a leggere e a scoprire il grande autore che l'altro anno ha avuto il centenario della sua nascita, che è Rodari. Quindi una valigia piena di libri di Rodari. Per le medie un'attenzione particolare ai libri di viaggi, di eroi e di eroine, ai libri per inseguire i sogni, a come costruire dei percorsi che possono aiutare a raggiungere i loro sogni, i loro obiettivi. Poi storie vere, storie in cui ritrovarsi, storie di avventure. Una cosa che ci ha molto colpito è che quest'anno c'è l'anniversario di Dante e abbiamo condiviso con alcuni insegnanti anche di costruire dei percorsi su Dante. Ma Dante non per studiare, per approfondire, cosa che chiaramente le scuole già fanno nelle medie, ma un modo per trovare delle tematiche e delle argomentazioni nei libri di attualità, cioè come tutte le argomentazioni che ha trattato la Divina Commedia possono ritrovarsi nei libri che parlano della realtà dei giovani di oggi. Chiaramente la nostra impresa è trovare e cercare libri e testi che catturano e nello stesso tempo che rispettano la pluralità di tutti i lettori, perché come sappiamo ogni lettore ha una sua preferenza di lettura e quindi per questo è stato per noi importante trovare testi diversi fra di loro e quindi ogni valigia è è ricca di romanzi, fumetti, racconti, albi illustrati, poesie, filastrocche, a seconda dell'età chiaramente. E tutto questo non solo nella quantità di diversi generi e diversi tipi di libri che abbiamo a disposizione, ma anche con la qualità. Sulla qualità chiaramente noi che facciamo questo lavoro ci teniamo tantissimo a stare attenti a scegliere l'autore che meglio sa raccontare e sa scrivere. Come sappiamo, il modo corretto per sapere libri di qualità è sapere di scoprire autori che scrivono in maniera onesta e sentita, che raccontano e riescono a catturare e facciano oltretutto venir voglia di continuare a leggere, vedere cosa succede ai protagonisti o alla storia. Quindi l'attenzione all'autore, alla modalità, al tipo di illustrazione, alle storie che vengono raccontate, queste sono prioritarie, perché sono convinta che la scelta dei libri da proporre ai ragazzi si deve sempre porre un'attenzione al rispetto del lettore e il diritto soprattutto alla verità e al modo in cui viene raccontato. Materialmente come si articola il progetto? Venite contattati da una scuola e poi? Le scuole ci contattano dopo che noi chiaramente abbiamo diffuso e promosso questa iniziativa. In primis con le nostre scuole e i nostri contatti, e poi man mano si è diffuso questa informazione e quindi tutte le persone chiedono di aderire al progetto. Chiedendo di aderire al progetto chiedono anche di aderire alla tematica che vogliono in qualche modo portare in classe e lavorare con i loro ragazzi, tenendo conto che ogni situazione è diversa. La cosa interessante è che chiaramente l'iniziativa è gratuita, che questa valigia potrà essere tenuta per 60 giorni e dopo ritorna in biblioteca e possiamo poi darne ad altre scuole. L'altra cosa importante è che alle scuole e alle insegnanti che fanno la domanda alla nostra biblioteca, il nostro indirizzo di posta elettronica, chiediamo anche di far iscrivere ogni bambino al progetto. Iscriversi vuol dire avere la tessera individuale di iscrizione alle biblioteche di Roma. Sai benissimo che le biblioteche sono 39 e avere una tessera di iscrizione vuol dire avere una tessera di iscrizione per tutte le 39 biblioteche, di conseguenza utilizzare dei servizi delle biblioteche che possono trovare nel sito BiblioTu delle biblioteche di Roma. Così ci hai dato anche i riferimenti web, letture in valigia, progetto di Biblioteche di Roma rivolto alle scuole. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Maria Di Giovanni della Biblioteca Centrale Ragazzi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie anche a te. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.